Emanuela. Buongiorno Gianluca. Suo compagno neoborbonico. Il mio compagno è un neoborbonico. Quindi vuole raccontarci della vita personale di una signora di un neoborbonico? Qualcosa del genere, nel senso che il mio compagno è calabrese, mentre io sono piemontese, noi viviamo a Torino. Quindi una sorta di unità d'Italia avete realizzato. Esattamente, ma... ci parli allora del vostro risorgimento? Sì. Felice. Diciamo che lui è un calabrese di nascita, perché poi è venuto in Piemonte, a Torino, quando aveva 5 anni, dopodiché non è mai più tornato in Calabria, non ne conosce la realtà, i suoi genitori in pratica non ne sono mai più tornati, e quindi lui è piemontese a tutti gli effetti, diciamo. Ha incontrato su internet il libro interamente scaricabile, Il Sud e l'Unità d'Italia, di Giuseppe Ressa, sul sito ilportaledelsud.org, lo ha studiato a fondo e si è convinto e ripete con frequenza quasi quotidiana le tesi che il suo ospite ha appena illustrato, e cioè che il Sud era estremamente più evoluto rispetto al Nord sabaudo e che tutti i mali del Meridione sono nati dalla conquista piemontese. Ora, io... non posso assolutamente controbattere, non ho voglia di studiarmi o di entrare in una diatriba storiografica, ma mi limito a fare questa considerazione. Se le cose stanno effettivamente così, come mai i miei antenati, posso risalire fino al 1700-1600, qui in Piemonte, erano già proprietari della terra che coltivavano, mentre i suoi erano in pratica servi della gleba? Questo, sentiamo, sentiamo, me, se ho capito il fa tema... Fa cadere tutta la tesi. Sì, vabbè, se io, guardo la storia della mia famiglia, la famiglia di mia moglie, può essere che chissà quali sorprese potrei avere, guardando all'indietro, bene, sì, bene, però sa, il tempo passa, le vicende cambiano, noi siamo quello che rappresentiamo nell'epoca in cui ci produciamo sensibilmente e coscientemente.